siamo arrivati al 20° anno di gestione Cineteca e IBC Movie, quindi questo è già un buon traguardo, perché nel corso di questi anni ci siamo confrontati con diverse difficoltà, prima fra le quali l'area che è sempre stata più soggetta alle necessità di una manutenzione straordinaria, e poi naturalmente si sono seguite, oltre alle difficoltà generali che ben sappiamo, anche le difficoltà specifiche di un mercato cinematografico che non sempre, anno dopo anno, si è mostrato costante a livello di buoni film e anche di buon risultato commerciale. Le novità: è già molto che in un panorama che da un mese a questa parte purtroppo mostra, dal punto di vista degli incassi, un certo disallineamento in negativo rispetto alla stagione precedente, è già una buona novità il fatto che comunque la proposta ci sembra di alta qualità. I film sicuramente sono degni della massima attenzione, e quindi, avendo anche un parterre di registi autorevole come gli anni precedenti, credo che la novità sia fondamentalmente nel fatto che possiamo confermare auspicabilmente i buoni risultati degli anni precedenti, che ci hanno portato anno dopo anno a confermare la Puccini come la più importante, la più frequentata arena cinematografica d'Italia. C'è un fil rouge tra i film inseriti nel programma? Il filo conduttore è di non avere un filo conduttore, ma di affidarci a quelli che sono stati i film di maggiore rilievo della stagione. Quindi dare la possibilità di vedere o di rivedere i film principali. Il filo conduttore, naturalmente, all'interno di questo criterio generale, è che si sono scelti film che dal punto di vista qualitativo sono stati il risultato delle più importanti proposte delle distribuzioni cinematografiche. Quindi un occhio senz'altro alla qualità, un occhio di riguardo al cinema italiano con la rassegna Accade Domani promossa dalla FICE, anche un occhio, naturalmente essendo l'estate e sotto le stelle, un occhio allo spettacolo, al grande spettacolo del cinema su grande schermo dell'Arena Puccini di oltre 18 metri di larghezza. Iniziate con Anatomia di una caduta. Un film straordinario, uno dei film più premiati della stagione, un film che a me personalmente è piaciuto moltissimo, ha avuto anche un buon riscontro di pubblico, ci è sembrato il prototipo del grande cinema europeo di qualità con cui inaugurare questa kermesse. Ci saranno degli ospiti? Sì, iniziamo 16 con Michele Riondino, che presenta il suo bel film d'esordio Palazzina Laff, poi Margherita Vicario con l'attrice Anita Rivaroli, che presentano Gloria, un film notevole che mi ha molto sorpreso, poi Riccardo Milani con Un altro mondo, poi Marco D'Amore, regista di Caracas, e Matteo Garrone, che viene a presentare Io Capitano, che ha appena vinto i 6 David di Donatello alle recenti edizioni ultime. Arena Puccini compie 20 anni. Quando avete iniziato, pensavate che sarebbe andata così? L'auspicio c'era, perché comunque l'Arena Puccini ha iniziato la sua attività alla fine del giugno del 1935 e ha interrotto le programmazioni soltanto in 2 anni particolari, ahimè, il 43 e il 44. Quindi le premesse c'erano, sapevamo di essere in un contenitore particolarmente caro ai bolognesi, molto tradizionale, molto sentito, quindi ce l'abbiamo messa tutta. Poi la Cineteca aveva anche la forza per impostare un programma di tutto rispetto, la sinergia con IBC 2000, la fiducia con Beppe Caschetto, che ci ha supportato anche dal punto di vista organizzativo nei primi anni, hanno fatto il resto. Quindi in realtà sì, onestamente c'era la presunzione di arrivare a pensare che l'Arena si sarebbe affermata, che avrebbe superato le difficoltà, che sarebbe ancora stato quel punto di riferimento per i bolognesi che è stato fino a quegli anni, a partire dal 35, come dicevo.